sprecare la seconda possibilità. Leggo in Seconda Re capitolo 20, versi da 1 a 6. In quel tempo Ezechia si ammalò di una malattia che doveva condurlo alla morte. Il profeta Isaia, figlio di Amoz, andò da lui e gli disse: «Così parla il Signore, dai i tuoi ordini alla tua casa, perché tu morirai, non guarirai». Allora Ezechia voltò la faccia verso il muro e pregò il Signore dicendo: «Signore, ricordati, ti prego, che ho camminato davanti a te con fedeltà e con cuore integro e che ho fatto ciò che è bene ai tuoi occhi». Ezechia scoppiò in un gran pianto. Isaia non era ancora giunto al centro della città quando la parola del Signore gli fu rivolta in questi termini: «Torna indietro e di a Ezechia, principe del mio popolo, così parla il Signore, Dio di Davide, tuo padre. Ho udito la tua preghiera. Ho visto le tue lacrime. Ecco, io ti guarisco. Fra 3 giorni salirai alla casa del Signore. Aggiungerò alla tua vita 15 anni. Libererò te e questa città dalle mani del re di Assiria e proteggerò questa città per amor di me stesso e per amor di Davide, mio servo». Leggo ancora in Seconda Cronache, capitolo 32, versi 24-26. In quel tempo Ezechia fu colpito dalla malattia che doveva condurlo alla morte. Egli pregò il Signore e il Signore gli parlò e gli concesse un segno. Ma Ezechia non fu riconoscente del beneficio ricevuto, poiché il suo cuore si inorgoglì e l'ira del Signore si volse contro di lui, contro Giuda e contro Gerusalemme. Tuttavia Ezechia si umiliò dall'essersi inorgoglito in cuor suo, tanto egli quanto gli abitanti di Gerusalemme. Perciò l'ira del Signore non si riversò sopra di loro durante la vita di Ezechia. Non capita spesso di avere una seconda possibilità. Normalmente la vita di ogni essere umano scorre con un percorso che varia da persona a persona, fino ad un certo punto in cui arriva al suo termine. In alcuni casi è possibile avere un'idea della vita che si sta avvicinando al termine, in altri casi la morte sopraggiunge improvvisa e talvolta prematura. Ma il caso di Ezechia è piuttosto singolare. Egli venne informato del fatto che la propria vita stava per finire, ma riuscì ad ottenere una proroga di durata stabilita. Ezechia era stato un buon re, che aveva eseguito le orme di Davide nel seguire il Signore, fino al momento in cui, come abbiamo letto, il Signore aveva stabilito di mettere fine alla sua vita attraverso una malattia. Fino a qui non troviamo nulla di strano. In fondo, come abbiamo osservato in precedenza, Ezechia condivide la sorte di tutti gli uomini, giusti o malvagi che siano. Ma a questo punto accadde qualcosa di davvero singolare. Ezechia, disperato, chiese a Dio di poter vivere ancora e Dio glielo concesse, fissandogli addirittura un termine: 15 anni. Ezechia ha ottenuto 15 anni di bonus. Niente male, vero? Quanti di noi vorrebbero poter godere dello stesso privilegio? Eppure la storia di Ezechia, durante questi 15 anni di bonus, ci dimostra che avere una seconda possibilità non è sempre un bene per noi. Forse è proprio questo il motivo per cui il Signore ha voluto che venissimo a conoscenza di questo aspetto della storia di Ezechia. Durante i 15 anni di bonus che Ezechia ricevette, egli commise infatti degli errori dovuti all'orgoglio. Se si prosegue la lettura in Seconda Re 20, versi 12 a 20, si apprende infatti che Ezechia fece vedere tutti i tesori reali ad una delegazione babilonese. Egli evidentemente non resistette alla tentazione di mostrare la propria opulenza e ciò dispiacque a Dio. Il brano che abbiamo letto in Seconda Cronache, pur non riportando tutti i dettagli che troviamo in Seconda Re 20, riassume in maniera impietosa il fatto che Ezechia non fu riconoscente del beneficio ricevuto, poiché il suo cuore si inorgoglì. Alla luce di quanto abbiamo letto, non possiamo fare a meno di chiederci se questi 15 anni di bonus siano stati davvero un bene per Ezechia. Sembra proprio che Ezechia abbia sprecato la sua seconda possibilità. Infatti, se Ezechia fosse morto 15 anni prima, non ci sarebbe stata questa macchia nella sua vita. Questo ci porta a considerare che anche se il piano di Dio per la nostra vita talvolta non sembra il migliore ai nostri occhi, possiamo stare certi che Egli ha ogni cosa sotto il suo controllo. Egli sa quello che fa. Magari noi piangiamo perché consideriamo un'ingiustizia ciò che il Signore ci sta riservando. Ma il Signore ci sta preservando da qualcosa di peggio in vista dell'eternità. Vorremmo davvero avere una seconda possibilità? per poi sprecarla come ha fatto Ezechia? Quante volte abbiamo ricevuto dei benefici da parte di Dio, ma non siamo stati riconoscenti? Piuttosto che chiedere a Dio una seconda possibilità, chiediamo a Dio di non sprecare l'unica cartuccia che ci ha dato e che Egli ci aiuti ad onorarlo con la nostra vita, ogni giorno, fino al momento in cui ci chiamerà a sé. Se la nostra vita avrà glorificato Dio, non avrà importanza se sarà stata più o meno lunga o corta, perché godremo comunque per tutta l'eternità del premio che Egli ha preparato per noi.